30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Se è nata un'Europa a due velocità, la colpa è della Gran Bretagna. Non ha usato mezzi termini il presidente francese Nicolas Sarkozy nell'attribuire la responsabilità a Londra del fallimento di un accordo a 27 per il rafforzamento dei sistemi di salvataggio economico e delle istituzioni UE. Non abbiamo trovato un accordo a causa delle condizioni inaccettabili poste dal premier inglese David Cameron, ha insistito Sarkozy in una conferenza stampa al termine di 10 ore di trattative estenuanti tra i leader di Bruxelles. Ancora buonasera, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque, l'avete capito dal titolo, parliamo di Europa. L'abbiamo tante volte detto questa settimana che sarebbe stato un consiglio d'Europa estremamente importante. Beh, lo è stato nella sua essenza. Si potrà discutere, e sicuramente lo faremo, per parecchio tempo, ma il percorso di trasformazione che viene innescato da questi incontri è di fronte agli occhi di tutto, ma grande passo in avanti, mezza delusione per il ruolo britannico. Questi sono solo alcuni dei punti che cercheremo di affrontare questa sera. Tra un momento vi presento il nostro ospite, però vorrei farvi subito sentire invece un commento registrato ieri mattina. Erano da poco passate le 5 del mattino. Il presidente della BCE Mario Draghi lascia la sala delle riunioni e si esprime in questi termini. It's a very good outcome for the euro area members, and it's going to be it will be the basis for a good fiscal compact. Eccolo dunque, it's a very good outcome. Conosciamo il presidente della BCE, ex governatore della Banca Italia, Mario Draghi. Se dice che è un ottimo risultato, credo che valga la pena sottolinearlo. Non è persona di solito che si lascia andare a facili entusiasmi. Questa sera con noi Antonio Villafranca, è responsabile per il programma Europa all'ISPI, all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che ha sede a Milano. Buonasera professore. Allora, prima battuta, questo bicchiere europeo è mezzo pieno o mezzo vuoto? Ecco, vorrei riprendere quello che ha detto Draghi prima, un ottimo risultato. Ecco, io sarei un po' meno ottimista, nel senso che è un risultato buono tenuto conto di quelle che erano le premesse, non è un risultato che risolve tutti i mali dell'Unione Europea e dell'Eurozona in particolare, però è un buon punto d'avvio, perché quantomeno, e su questo Draghi ha perfettamente ragione, per quanto riguarda il comparto fiscale, per quanto riguarda il coordinamento delle politiche di bilancio, molto è stato fatto e sicuramente nella giusta direzione, però ci sono ancora molti ambiti, se vuole poi ne parliamo, ovviamente, in cui rimane ancora tanto da fare. Assolutamente, d'altra parte, come dire, non è che certe crisi, certe trasformazioni possano risolversi in una notte. In fondo il sentimento, la sensazione è che si rischiasse grosso sul fronte europeo. Allora vediamo in dettaglio tre elementi da Van Rompuy, insomma tutti i responsabili, i massimi vertici europei hanno spiegato che sono state raggiunti accordi su tre fronti. Il primo, il rafforzamento delle regole di coordinamento, con la cosiddetta unione fiscale. Poi, e questo riguarda naturalmente il medio e lungo periodo, poi il meccanismo europeo di stabilità e il terzo elemento riguarda il rapporto con l'FMI. Allora, partiamo dal primo punto. Cosa significa più unione fiscale? Beh, anzitutto vuol dire che vengono gli Stati in un certo qual modo obbligati a perseguire il pareggio di bilancio, in quanto si stabilisce uno scostamento non superiore allo 0,5% del rapporto deficit-PIL. Quindi questo è sicuramente un conseguente importante, però va ricordata una cosa assolutamente fondamentale, che non si agirà attraverso una modifica dei trattati, e quindi per quanto riguarda l'enforcement di questi accordi bisognerà vedere qual è il quadro giuridico di riferimento, che non potrà essere il normale quadro giuridico dell'Unione Europea, per cui va bene le sanzioni che saranno automatiche, a meno che non il Consiglio ma l'Eurozona non deciderà diversamente, proprio perché non può essere adottato il quadro normativo e consolidato di riferimento dell'Unione Europea, proprio perché non è appunto una decisione decisione unanime di tutti e 27 i paesi membri. Quindi questo è un primo aspetto da tener conto per quanto riguarda proprio poi l'enforcement delle nuove regole che vengono stabilite. Ecco, però da questo punto di vista, mi scusi, c'è questo salto in avanti, questa maggiore politica europea che di fatto la cui assenza viene lamentata anche quando si parla della situazione generale dell'euro? È stato fatto questo passo avanti o comunque avviato? È stato fatto limitatamente a quella che è la politica fiscale, a quella che è la politica di bilancio. Su questo obiettivamente si va verso un'unione fiscale. È comunque incompleto, perché anche limitandosi agli aspetti più strettamente, diciamo, di bilancio, per quanto riguarda ad esempio la gestione dell'altra parte, cioè dalla parte del debito, ad esempio, ecco, non c'è una condivisione di obiettivi, non c'è una condivisione anche di garanzie, cioè l'ipotesi degli Eurobond o Stability Bond, come era stata appunto chiamata dalla Commissione, viene scartata per volere quasi, diciamo, soltanto da parte della Germania, per la ferma opposizione da parte della Merkel. Si lascia un piccolo spiraglio dicendo che comunque la Commissione può continuare il suo studio di fattibilità, una verifica da fare in futuro, però ecco, non si è voluto andare fino in fondo, cioè coordinare, come si sta facendo in maniera stretta, la parte appunto delle spese, però ovviamente anche si dovrebbe anche fare l'altro passo, che è quello appunto di coordinarsi e di garantire unanimemente anche la parte dell'emissione di titoli a fronte appunto di un comune debito europeo. E questo non è stato fatto. Abbiamo detto che da una parte il coordinamento fiscale proietta da respiro di medio-lungo periodo. Per quanto riguarda invece l'urgenza, l'emergenza appunto e la questione del debito, allora che cosa ha portato questa nottata di trattativa che si è conclusa ieri mattina all'alba? Beh, anzitutto è stato detto che il fondo salva stati, che è quello che è già stato utilizzato per salvare alcuni stati europei, continuerà ad operare fino al 2013, anche per ovviamente permettere comunque di onorare gli impegni che sono stati presi nei confronti di questi paesi. Ed è stato anticipato a luglio del prossimo anno l'avvio dello European Stability Mechanism, quel fondo, diciamo, che in maniera stabile dovrebbe appunto evitare poi situazioni di default all'interno dell'area euro. Dovrebbe avere una dotazione di 500 miliardi di euro, in qualche modo, ma non è stato specificato poi bene, dovrebbe essere collegato al fondo salva stati, anche se non viene fatta una fusione tra i due strumenti. La gestione operativa viene assegnata alla Banca Centrale Europea, anche se poi le decisioni continueranno ad essere presi dagli Stati membri. Le decisioni, e questo è un passaggio importante, verranno prese all'unanimità, a meno che però la Commissione e la Banca Centrale Europea non ritenga che ci sia un motivo di urgenza particolare, allora in questo caso si può passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata, quindi gli Stati non devono essere necessariamente unanimi, ecco, nel decidere di attivare questo fondo, perché basterà appunto l'85%. Quindi si tratta sicuramente di un passo significativo, un passo importante. Ovviamente bisognerà poi vedere quali sono le technicalities, quali sono gli aspetti più tecnici di questo accordo, di come attivare effettivamente questo fondo, quanti saranno concretamente poi le risorse disponibili, perché alcune saranno date appunto come contributi cash da parte degli Stati, però bisognerà vedere poi effettivamente quale sarà il rapporto tra questi contributi cash e la possibilità di questo nuovo strumento di aiutare effettivamente gli Stati. Già ad esempio questi ammontari ovviamente rimangono comunque insufficienti nel caso di default importanti, grossi, ad esempio di Italia e Spagna. Da qui la necessità di ricorrere anche ad altro, e quindi quello che lei citava prima, anche l'intervento da parte del Fondo Monetario Internazionale. Ecco, su questo punto sentiamo, a proposito di voce all'uscita di questa nottata di trattative, quella di ieri appunto, che si è conclusa prima dell'alba di ieri mattina, sentiamo Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che esce e spiega così i risultati raggiunti. Les négociations ont été longues et fructueuses, et je crois qu'on peut se réjouir du résultat, au moins sur trois grands points. D'abord parce que les États membres signataires ont décidé de renforcer les règles de coordination. Ecco dunque, anche lei esce e spiega che sono stati raggiunti 3 punti di accordo. Adesso non vi sto a fare risentire di fatto quanto abbiamo sviluppato. Il terzo punto dice però c'è un finanziamento, un ruolo maggiore del Fondo Monetario Internazionale. Si parla di 200 miliardi di euro. Allora, professor Villafranca, ci aiuti a capire, il Fondo Monetario Internazionale cosa ci fa a una riunione al massimo livello dell'Unione Europea? Beh, anzitutto partiamo da un presupposto. È stata fatta la scelta di non coinvolgere in maniera diretta e forte la Banca Centrale Europea, che potrebbe avere, attraverso quella che si dice tecnicamente la monetizzazione del debito, il firepower, quella capacità obiettiva, diciamo, di poter appunto risolvere qualsiasi crisi di liquidità. Allora ecco che il ricorso al Fondo Monetario Internazionale è quasi obbligatorio. La via che è stata scelta è quella di permettere dei prestiti bilaterali tra le banche centrali dei vari stati membri al Fondo Monetario Internazionale, da destinare peraltro non ad un fondo che, diciamo, dovrebbe essere destinato esclusivamente ai paesi europei, perché questo potrebbe essere considerato come un aiuto diretto dei paesi europei verso altri paesi europei per evitare fallimenti. E ricordiamo che nel trattato, visto che non sarà modificato, vale sempre la no bailout clause, cioè la impossibilità, la clausola che impedisce appunto di salvare un altro Stato membro. Allora questa clausola viene aggirata non concedendo prestiti tra paesi, diciamo, membri, ma da paesi membri al Fondo Monetario Internazionale in generale, che potrebbe poi, diciamo, utilizzare questi fondi come vuole, però ovviamente, certo, anche la presenza di un direttore come europeo, come francese, non casuale, diciamo, ovviamente agevolerà poi l'eventuale il meccanismo. Antonio Villafranca, resti con noi, adesso sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane, poi torniamo per la seconda parte del nostro appuntamento con 30 minuti in cronaca. 30 minuti in cronaca. Rieccoci dunque questa sera a parlare di Europa, a parlare di passaggi importanti, probabilmente epocali in una fase anche della storia della costruzione europea. Tra l'altro, tra poco meno di 50 giorni festeggeremo i 20 anni di Maastricht, insomma la moneta unica e anche la clausola che rende il Regno Unito particolare all'interno della costruzione europea. Molta carne al fuoco, molti cambiamenti possibili e indispensabili, visto che la crisi morde ai fianchi. Dicevamo del Fondo Monetario Internazionale. A proposito, Madame Lagarde, Christine Lagarde dice: l'Europa ha dato una dimostrazione di leadership con l'accordo raggiunto e ora spero che anche altri facciano la loro parte. Il direttore appunto del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha salutato così le intese sul rafforzamento della disciplina. Allora, lo ricordo, abbiamo questa sera con noi Antonio Villafranca, che è responsabile per il programma Europa all'ISPI. Dicevamo, una triangolazione di comodo, ma del tutto coerente con i meccanismi finanziari internazionali, non è una riduzione del potere europeo. È diciamo nel concreto una necessità, cioè quella di rendersi conto che non si riesce a fare tutto all'interno dell'Unione Europea e allora bisogna utilizzare anche uno strumento internazionale che già esiste e in cui comunque la forza dell'Unione Europea è sicuramente alta, importante, tant'è vero che viene anche criticata dai paesi emergenti. Peraltro gli stessi paesi emergenti, ad esempio la Cina e il Brasile, si sono espressi positivamente, hanno detto che potrebbero anche loro contribuire per eventualmente appunto salvare alcuni paesi europei. Quindi c'è una condivisione, possiamo dire, di intenti e sicuramente appunto il coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale non va vista in maniera preconcetta, cioè con diciamo l'atteggiamento di pensare che l'Europa non ce la fa da sé. Ecco, è un ulteriore strumento. Non insomma, uno strumento in più nell'arsenale, quelli possibili per utilizzi attuali o futuri. E poi in questa storia c'è anche chi dice no. If I couldn't get adequate safeguards for Britain in a new European treaty, then I wouldn't agree to it. What is on offer isn't in Britain's interests, so I didn't agree to it. direi piuttosto chiaro nella sintesi di 12 secondi, il primo ministro Cameron che sintetizza, che conclude dicendo quello che è stato offerto non è negli interessi britannici, dunque io non ho dato il mio accordo, non ho condiviso. Che succede con il Regno Unito? Beh, nei primi commenti si è sentito spesso parlare di Europa a due velocità. Ora, al di là, diciamo, di quello che può essere la lettura un po' giornalistica, ecco, di questo fatto, l'Europa a due velocità esiste già da tanti anni. Esiste da quando è stato lanciato l'euro, esiste da quando esiste una politica monetaria europea che esclude la Gran Bretagna. Questo è la logica conseguenza di una scelta fatta dalla Gran Bretagna già tanti anni fa, cioè quella di restare fuori dall'unione monetaria. L'unione monetaria era stata fatta male perché mancava una gamba importante, che era appunto il coordinamento delle politiche fiscali e direi anche delle politiche economiche, perché non è soltanto quello il problema della moneta unica, il problema dell'eurozona è la mancanza della convergenza economica, cioè del fatto che ci sono paesi all'interno dell'eurozona che sono in fasi del ciclo economico anche molto distanti, e quindi di fronte ad una politica monetaria comune il rischio è che questa risulti prociclica e quindi aggravi determinate situazioni di recessione in alcuni paesi che non si trovano ad esempio nella stessa fase del ciclo economico del paese di riferimento che è la Germania. Quindi quello che sta succedendo è una logica conseguenza di una scelta fatta dalla Gran Bretagna da molto tempo, cioè quello di rimanere fuori dall'euro. Questo però rischia di essere un boomerang per la Gran Bretagna, Cameron lo sa benissimo, ma d'altra parte con la forte opposizione che ha nel suo stesso partito all'interno, certo. All'interno non, obiettivamente credo che non potesse fare altro, ma se è vero come è vero che insomma oltre ai paesi dell'Eurozona altri appunto aderiranno, altri sei più l'Ungheria che sembra ci stia pensando, più ancora la Svezia e altri paesi, si potrebbe addirittura arrivare a 25-26, allora è evidente che questo sarebbe neanche un'Europa a due velocità, è un'Europa ad una velocità senza con il Regno Unito da un'altra parte, sì. Con il Regno Unito da un'altra parte che dovrebbe pagare le conseguenze di ciò, soprattutto quello che teme il Regno Unito è il voto a maggioranza qualificata per quanto riguarda le decisioni concernenti la regolamentazione finanziaria, e quindi quello che chiedeva in effetti era un protocollo da allegare al nuovo trattato in cui la City of London fosse trattata in maniera sostanzialmente diversa. Adesso non vorrei semplificare oltre misura, ma non c'è una richiesta di una sorta di paradiso fiscale londinese in un'Europa che chiede regole, che chiede appunto impegni continui da parte inglese? È ragionevole sostenere questa posizione? Beh, non direi paradiso fiscale perché in realtà lo stesso primo ministro inglese non chiedeva in realtà ecco ulteriori facilitazioni, agevolazioni che andassero nella direzione di una sorta di paradiso fiscale, ma ecco chiedeva un minore intervento da parte di quella che ad esempio l'autorità europea di controllo sulle banche, e chiedeva di non intervenire ulteriormente per sulla regolamentazione dei mercati finanziari, chiedeva di non intervenire. Io ho forzato un po' l'espressione però in realtà anche dalle sue parole ho un po' la sensazione, ripeto, non è il paradiso fiscale, era per forzare una realtà, però insomma in un'Europa che impone delle regole il Regno Unito chiede di frenare quanto riguarda la città di Londra, che chiaramente è la città di Londra in senso del suo valore finanziario, ma insomma è un altro capitolo importante, delicato, che andrà sviluppato. Professore, le chiedo ancora nei tre minuti, due minuti che ci restano, una battuta: l'Italia del governo Monti in questa trattativa come esce? Beh, anzitutto c'è da rilevare che nelle stesse conclusioni del summit c'è proprio una piccolissima frase che in maniera molto sintetica dice che vengono ritenute opportune e adeguate le misure prese dall'Italia. E io vorrei aggiungere soltanto su questo che da un punto di vista di visione strettamente contabile l'Italia ha fatto i propri compiti a casa, perché il pareggio di bilancio nel 2013 o addirittura addirittura nel 2012 potrebbe concretamente essere raggiunto dopo l'ultima manovra. Aggiungerei che quello che manca ma a tutta l'Europa, che è il vero ancora punto debole dell'eurozona e dell'euro, è un maggiore coordinamento di tutte le politiche economiche, quelle che poi dovrebbero veramente rilanciare la crescita. La reazione non entusiasmante che i mercati hanno avuto e avranno nei prossimi giorni è il fatto che comunque le tensioni non verranno totalmente eliminate, dovuto al fatto che gli effetti recessivi delle politiche di austerity permarranno e che ancora è troppo debole, troppo labile il coordinamento di tutte le politiche economiche, incluse le politiche di welfare, incluse le politiche industriali, all'interno dell'eurozona. Questo è ancora un punto su cui si è intervenuto poco, malgrado le misure anche che sono state approvate proprio a settembre nel cosiddetto six pack, che modifica anche la governance economica dell'Unione, però è ancora in questo una campo una strada ancora da percorrere. Assolutamente. Allora, con Antonio Villafranca, lo ricordo, responsabile per il programma Europa dell'ISPI, che ringrazio di essere stato con noi. Una battuta invece: noi abbiamo parlato questa sera di Europa 23 più 4, 26 più 1, nel frattempo ieri è apparsa un'Europa a direzione 28, la Croazia che compie un passaggio chiave nella sua piena ingresso nell'Unione Europea. Un commento su questo? Beh, era un risultato in realtà largamente anticipato, certo, e non sorprende, non credo che cambierà di molto gli equilibri. La Croazia, benché ovviamente abbia un significato strategico, anche storico-politico importante, non credo che possa cambiare molto gli equilibri istituzionali e di potere all'interno dell'Unione Europea. È comunque qualcosa da diciamo vedere positivamente, perché l'Unione Europea, malgrado tutti i suoi problemi, rimane ancora un centro di attrazione per gli stati dell'Europa centro-orientale. Questo è comunque un risultato da salutare positivamente. E questo forse anche da ricordare da chi ci sta dentro da tanti anni. Grazie ad Antonio Villafranca di essere stato con noi questa sera. Roberto Scaltritti in regia. 30 minuti in cronaca torna sabato prossimo, come sempre, alle 19:30. Buon fine settimana a tutti voi.